Questa settimana parliamo di un gruppo irlandese che per molti è soltanto la band del figlio di Bono, ma il quartetto composto da Elijah Hewson a voce e chitarra, Robert Keating al basso, Ryan McMahon alla batteria e Josh Jenkinson alla chitarra si sta affermando sempre più nel fittissimo mondo dell'indie e dell'alternative rock, pieno di tantissime band concorrenti. Il loro nome è Inhaler e la settimana scorsa, venerdì 17 febbraio per essere precisi, è uscito il loro secondo disco, Cuts and Bruises. Tradizionalmente la registrazione del secondo disco è sempre una prova difficile per qualsiasi gruppo, soprattutto se l'esordio è stato un successo come nel caso di questa formazione. Il loro album di debutto, uscito a luglio del 2021, si chiama It Won't Always Be Like This e ha raggiunto diversi primati, quali essere il primo album di debutto di un gruppo irlandese dal 2008 ad andare in testa alle classifiche inglesi ed essere il disco d'esordio che in vinile ha venduto più velocemente nell'intero secolo. Come sonorità, questo secondo disco non si discosta tanto dal precedente. In particolare, il primo singolo, These Are The Days, uscito lo scorso giugno, è il punto di contatto sonoro fra i due lavori fin qui pubblicati dal gruppo. Registrare questo nuovo album non è stato facile. Le ispirazioni certo non mancavano, soprattutto per quanto riguarda il lato musicale. Gli stessi membri della band hanno rivelato che soprattutto l'alternative rock inglese, Joy Division e Stone Roses, per fare due esempi, sono il bagaglio da cui pescano più spesso per comporre le loro canzoni. Tuttavia, la registrazione dell'album è avvenuta contemporaneamente al tour che li ha fatti suonare anche in molti festival, al fianco di alcuni fra i nomi più importanti del panorama musicale mondiale, Kings of Leon e Arctic Monkeys su tutti. Questo periodo stressante ha portato più volte la band sull'orlo della crisi e dello scioglimento, ed è proprio a questo che allude il titolo dell'album. I tagli e le ferite sono quelli che caratterizzano i primi anni della vita di una nuova band, molto spesso movimentati e eccessivamente frenetici. C'è un brano nel nuovo disco che parla proprio di questo, ed è Now You Got Me, un invito ad impegnarsi nei confronti dell'altro, a cominciare ovviamente da chi ci sta vicino. Altra traccia da sottolineare è sicuramente Dublin in Ecstasy, un brano quasi psichedelico che descrive alcune scene ambientate nella città di origine della band. Il gruppo infatti non ha mai nascosto il profondo legame con la propria terra di origine, dichiarando di volerci tornare ogni qualvolta gli è possibile, anche nel corso di una tournée. Passando invece ai testi, se il primo disco portava avanti due temi contemporaneamente, quello della vita confinata nello spazio della propria abitazione a causa del lockdown e quello della formazione di una propria personalità, individuale certo, ma anche artistica, contemporaneamente al processo che porta a diventare una band, in questo secondo lavoro l'argomento principale è sicuramente il crescere, e non solo a livello anagrafico. Dopo il primo singolo ricordato prima, sono stati altri due i brani che hanno anticipato l'uscita del disco, Love Will Get You There, uscito ad ottobre, e infine, lo scorso primo febbraio, è stato il turno di If You're Gonna Break My Heart. E ora, che il disco è finalmente uscito e sta già ricevendo le prime recensioni positive dalla critica, non c'è modo migliore per festeggiare se non partire con una nuova serie di concerti in giro per il mondo. È già iniziato dall'Inghilterra il tour a supporto del disco, che a maggio arriverà anche in Italia per ben tre date, che segneranno il ritorno del gruppo nella nostra nazione dopo la data del maggio 2022 ai Magazzini Generali di Milano. La prima delle tre date in particolare sarà all'Estragon di Bologna il 13 maggio ed è già sold out. Rimangono invece disponibili gli ultimi biglietti per le altre due date, all'Orion di Ciampino il 14 maggio e all'Alcatraz di Milano il 16.